in primo piano. Il tempo stringe. E allora perché lo sciupa in chiacchiere, si sbrighi? Il suo nome completo è Harriet Belinda Hubbard? Sì, mi chiamarono Harriet. Immagino perché... che Mr. McKean si sia affrettato ad informare tutti della vera identità di Ratchet. Quella carogna d'un assassino. Conosceva gli Armstrong? No, questo no, ma erano una famiglia importante. Per caso ho udito tutta la sua... E noi diamo l'addio a Lauren Bacall, che ci ha lasciato, Hollywood all'età di 89 anni. Questo è quello che appare sui siti questa mattina. La moglie di Humphrey Bogart, anche lei un altro lutto ad Hollywood dopo quello di Robin Williams, di cui parleremo più tardi. Allora, vediamo subito oggi l'apertura dei giornali, dando prima però un saluto al nostro ospite Alfonso Raimo dell'agenzia Dire, giornalista politico, un po' un punto di riferimento della sala stampa, una delle nuove leve. Buongiorno Alfonso. Buongiorno Elisabetta e buongiorno agli ascoltatori di Radio 24. Allora, inflazione a quota zero, il titolo del Sole 24 Ore, ma in 10 grandi città italiane è già arrivata la deflazione. La Repubblica, Renzi e l'articolo 18, basta con i totem, allarme deflazione. Il Corriere della Sera, lavoro, lo statuto cambierà, Renzi sull'articolo 18, totem ideologico, inutile discuterne. Il Messaggero, Renzi, l'articolo 18 è solo un totem. Il Premier replica ad Alfano, abolizione tema ideologico, riscriveremo lo statuto dei lavoratori. La Stampa, Renzi, lavoro, sì a nuove regole, l'articolo 18 è solo un totem, dibattito inutile, ma riforniamo lo statuto. Il Fatto Quotidiano, i consumi vanno a picco, la troica dietro l'angolo, nuova mazzata dell'Istat, 10 città già in deflazione. Il Manifesto, avanti il prossimo, e si parla l'austerità abbassa i consumi e deprime i prezzi, l'Italia entra nel club della deflazione come già Grecia, Spagna, Olanda, il rallentamento della Germania accentua la tendenza, questo il Manifesto. Italia Oggi, enti in dissesto commissariati. Con una modifica costituzionale si concede al governo la possibilità di far saltare le poltrone di regioni ed enti locali che non riescono a far quadrare i loro bilanci. La Padania, il baro, con Renzi che gioca a poker, questa è la fotografia, Zaia scopre il bluff di Renzi, non ho nulla contro gli 80 euro, ma se decidi di finanziare le buste paga di alcuni cittadini lo fai con i soldi tuoi e non vieni a tagliare i fondi alle regioni, questo è il governatore del Veneto. L'Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica, Maliki si arrende, spiragli per l'Iraq, la Santa Sede, l'Islam condanni le violenze. Poi abbiamo Libero, i 20 consigli del fisco per chi ha una casa, vademecum antitrappole, ecco come destreggiarsi tra i mille commi delle leggi per gestire e affittare un appartamento senza incorrere in sanzioni che possono arrivare al 400% dell'importo dovuto. Il Giornale, gli italiani scappano, record d'emigrazione a Londra e la conferma che le risorse del paese non bastano neppure per noi, paradossi dell'accoglienza, ci teniamo gli scrocconi e non riusciamo a dare asilo ai veri perseguitati. Il Foglio, l'incubo del puzzone, gli antirenziani vedono Renzi danzare con il cavaliere e gli girano assai. Il Giorno, articolo 18, stop di Renzi, il Secolo XIX, lavoro, Renzi riscrive lo statuto e infine la Gazzetta dello Sport, Conte, Italia si può. Allora, subito una domanda ad Alfonso Raimo, tu ieri eri a Palazzo Chigi, che sì. Cosa vuol dire che Renzi quando dice l'articolo 18 è un totem? Perché dai giornali non si capisce, sì è uno scontro con Alfano, ma lo vuole abolire o non lo vuole abolire il Premier? Lo vuole modificare, credo che questa sia la sintesi alla domanda che mi poni. Renzi definisce l'articolo 18 un totem perché ricorda l'eterno ritorno di questa polemica, di questo dibattito che ha avuto un suo momento, diciamo, di massimo ascolto, potremmo dire, nel 2002, quando Cofferati portò 3 milioni di persone in piazza contro il tentativo dell'allora governo di centrodestra di abolire l'articolo 18. Per Renzi la questione, la partita si giocherà non come vuole Alfano nel decreto sblocca Italia del 29 di agosto, e quindi quando dice la discussione in questo momento è inutile, perché vuole derubricarla dal capitolo delle emergenze, dal capitolo delle priorità. La partita si giocherà invece in via ordinaria, in quello che è un disegno delega depositato al Senato e che è la delega sul Jobs Act, cioè sulla riforma della disciplina del lavoro, all'interno del quale probabilmente entrerà una modifica dell'articolo 18 per determinate categorie di lavoratori. E quindi il quadro che Renzi disegna è un quadro, per così dire, più soft, cioè meno improntato all'emergenza. Non vuole fare di questo tema un tema caldo che lo esponga anche nei rapporti politici interni al Partito Democratico ed esterni al suo partito. Ecco, infatti leggiamo il retroscena. Intanto ricordo ai nostri radioascoltatori il numero degli sms 349-238-6666. Leggiamo il retroscena di Francesco Bei e Carmelo Lo Papa su Repubblica, il piano del Premier per cambiare le tutele. La sparata di Angelino Alfano sull'articolo 18 in privato Matteo Renzi non gli dà peso, è un'uscita per cercare visibilità. Il Premier non crede infatti che il nuovo centrodestra abbia la forza per sfilarsi o per imporre una linea di rottura su un tema politicamente delicato come quello del lavoro, che scatena immediati riflessi difensivi nella sinistra PD e nella CGIL. Eppure qualcosa nel governo si sta muovendo, anche se l'uscita del leader del nuovo centrodestra ha rischiato di compromettere un'operazione che Renzi e Poletti pensano di gestire con tempi più lunghi. Il piano infatti esiste e passa anzitutto dalla legge delega sul lavoro, che il 2 settembre inizierà la discussione a Palazzo Madama. Renzi sa bene che in Parlamento l'abolizione delle tutele dell'articolo 18 non passerà mai, per questo l'idea è quella di allargare molto il perimetro della delega al governo, tanto da includervi quella revisione del contratto di lavoro a tempo indeterminato a cui già faceva cenno il decreto Poletti. Ecco, era quella che un pochino dicevi tu, anche perché Alfonso, diciamolo sinceramente, sappiamo che il PD non voterà mai l'abolizione dell'articolo 18, ma anche sì, il Movimento 5 Stelle, perché com'è diviso il Parlamento su questo tema? Infatti lui i numeri sono chiari. In primo luogo bisogna dire che le due commissioni hanno un segno, le due commissioni, la Commissione Lavoro del Senato e la Commissione Lavoro della Camera, hanno un segno politico completamente diverso. Al Senato la presiede Sacconi di NCD, alla Camera la presiede Damiano, che sostanzialmente è della sinistra PD. Damiano e Sacconi hanno una lunga storia di polemica tra di loro sull'articolo 18 e sono già armati, per così dire, cioè sono già avvertiti che quello è un campo minato. Dopodiché i numeri in Parlamento mettono al sicuro l'articolo 18, perché i 160 parlamentari del Movimento 5 Stelle non voteranno mai per l'abrogazione o per una sensibile diminuzione delle tutele dell'articolo 18, e quindi una eventuale manovra, per così dire, corsara all'interno del PD troverebbe da quella parte larga sfonda, molto più di quello che avviene in queste, che è avvenuto negli ultimi tempi con la riforma del Senato. C'è da dire invece che NCD scalpita, ma probabilmente, almeno questa è una lettura che va per la maggiore, i motivi di questa fibrillazione all'interno del partito di Alfano sono più da ricercarsi all'interno della coabitazione nel centrodestra con Forza Italia. Da una parte c'è Forza Italia che avanza delle proposte di collaborazione col governo sui temi economici, dall'altra parte c'è NCD che teme di finire schiacciata tra i due colossi, da una parte il PD, dall'altra Forza Italia, e sostanzialmente questa è una lettura che girava ieri ed è quella che appunto Renzi accredita. Da parte di Alfano c'è la ricerca di visibilità su temi che sostanzialmente fino ad oggi non erano all'agenda. C'è anche da dire che poi l'articolo 18 ha già subito in qualche modo nei contenuti una sgrossatura, cioè una limitazione, e con la legge Fornero che ha introdotto i licenziamenti individuali per motivi economici. Sostanzialmente l'agenda del governo non prevede oggi di mettere in campo una partita politica sull'articolo 18. E ad Alfano vengono, per così dire, lanciati degli avvertimenti che riguardano invece un'altra partita, che è quella della legge elettorale. La semplifico: se insisti nel porre opt-out, diktat al governo su materie di contenuto, diciamo, amministrativo di governo. Tieni conto che noi con Forza Italia abbiamo in piedi un patto per le riforme che comprende la legge elettorale. Le soglie di sbarramento ti costringerebbero ad andare col piattino, tra virgolette, da Berlusconi per chiedere una rappresentanza parlamentare. Questo un po' mi pare una delle letture accreditabili su questa vicenda. Ecco, infatti segnaliamo poi in primo piano sul Messaggero proprio Berlusconi pronti a collaborare con Matteo. L'ex cavaliere fa il punto ad Arcore con i fedelissimi, giusto allargare il patto del Nazareno all'economia. Il momento per il paese è troppo difficile. Torna l'ipotesi di sostenere singole misure, non inciuci responsabilità. Come segnalo un'intervista a Lorenzo Guerini sul Corriere della Sera, confronto a settembre con coraggio e senza pregiudizi, la sede giusta è il Jobs Act, il vice segretario PD dice serve una riforma complessiva e nel testo c'è l'inserimento con tutele crescenti, e poi la strategia per superarlo, sempre sul Corriere della Sera, senza scontri, la legge delega e la cautela sui tempi, il timore di nuove tensioni al Senato. Praticamente c'è questo articolo di Marco Galluzzo, meglio farlo senza dirlo, l'introduzione di un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, uno dei cardini della legge delega che verrà discussa in Senato a settembre, il punto principale del Jobs Act di Matteo Renzi, l'articolo 18 in sostanza lo manda in soffitta, è un totem già abbattuto dalla filosofia del provvedimento che discuteremo, dicono nello staff del Presidente del Consiglio, dunque discuterne ora è inutile. E ieri Renzi ha risposto ad Alfano in modo apparentemente duro, scrive Galluzzo, molto meno nella sostanza. Maurizio Sacconi del partito di Alfano, già ministro del lavoro, l'ha rimarcata a stretto giro. Renzi è il primo leader della sinistra che dice di voler riscrivere lo statuto dei lavoratori. Quindi rimandiamo anche un articolo di Lina Palmerini sul nostro giornale Il Sole 24 Ore, c'è un disegno delega che si sta discutendo in Parlamento, riscriveremo lo statuto dei lavoratori pensando, dice Renzi, alla ragazza di 25 anni che non può aspettare un bambino perché non ha le garanzie minime. Però insomma poi questa cosa di dare il lavoro ai giovani è una maschera, no? Per dire che comunque lo statuto dei lavori cambierà. Allora segnaliamo anche alcuni dei vostri sms, c'è un radioascoltatore che ci sta dando tutti gli stipendi di Ugo Zampetti, segretario della Camera, Elisabetta Serafini, segretario del Senato. Invece Maria Rosaria ci dice è possibile esercitarsi sul Renzi pensiero, cioè su super fuffa, quando il mondo soffre per guerra e fame, essendo Matteo Renzi al governo noi cerchiamo di capire che cosa vuole fare. Altro tema è l'inflazione a quota zero, con cui apre il nostro giornale Il Sole 24 Ore, Italia alle prese con lo spettro della deflazione, in 10 grandi città i prezzi a luglio sono risultati più bassi rispetto ai livelli dell'anno scorso, lo rivela l'Istat che era confermato le stime preliminari. Il mese scorso a livello nazionale l'inflazione su base annua si è avvicinata a quota zero, fermandosi allo 0,1% dallo 0,3% di giugno, livello più basso dall'agosto del 2009. E secondo l'Istat il rallentamento è principalmente imputabile all'ampliarsi della flessione dei prezzi degli energetici regolamentati. Qui segnalo un editoriale sul Sole 24 Ore di Fabrizio Galimberti, a guardare alle grandi finanziarie all'economia italiana non sembra messa male. La borsa, malgrado gli inciampi delle ultime settimane, segna un più 17% rispetto a un anno fa. I tassi dei titoli pubblici sono anch'essi più bassi di un anno fa, ma quando si passa alle grandezze reali la musica cambia, l'inflazione ha cambiato pelle, è diventata deflazione, 10 città vedono il segno meno nella dinamica dei prezzi, anche se parte della discesa dei prezzi viene da una deflazione buona legata alla tecnologia. Non vi è dubbio che la maggior parte è una deflazione cattiva, però figlia della debolezza della domanda. Insomma, praticamente l'inflazione è a quota zero perché non c'è domanda, quindi non c'è ripresa, anzi stiamo andando di nuovo verso una recessione. I nuovi dati dell'Istat confermano questa recessione tecnica di fatto, Alfonso? Sì, diciamo lo scenario più preoccupante per Palazzo Chigi è appunto questo, dal punto di vista economico. Ieri Renzi ha confermato che non ci sarà una manovra in autunno, una manovra economica che era stata in qualche modo adombrata da più fonti e ha respinto anche vari tentativi, insomma, di far subentrare lo scenario di un intervento diretto della Troica per favorire le riforme in Italia. Quello che ci sarà invece una manovra all'inizio del 2015 con una spending review di 16 miliardi, con tagli alla spesa pubblica per 16 miliardi. Da quella fonte di risorse Renzi conta di recuperare dei fondi per finanziare il potere di spesa degli italiani e quindi andiamo sul tema dei consumi. E è ancora uno scenario aperto, per così dire, perché ieri ha confermato che l'intenzione di ribadire, per così dire, gli 80 euro alla platea dei beneficiari del 2014 c'è e quindi quegli 80 euro saranno confermati. Per quanto invece riguarda l'espansione, l'allargamento degli 80 euro del bonus anche ad altre platee come gli incapienti, i pensionati, le partite IVA, su quel punto ieri Renzi è stato più vago, ha detto non è escluso che non ci sarà, ma non è detto che ci sarà, quindi c'è un lavoro in corso. Gli occhi sono puntati sostanzialmente sul taglio alla spesa pubblica, bisogna capire dove effettuarli. Nei giorni scorsi Renzi, da San Rossore, dove ha partecipato al meeting dei Boy Scout, ha dedicato un'attenzione particolare alla difesa, al capitolo di spesa della difesa, dicendo che sostanzialmente ci sono armamenti strategici, per così dire investimenti strategici nel campo degli armamenti, ed altri che non lo sono. E probabilmente quello sarà uno dei capitoli su cui insisterà. Un secondo è probabilmente legato allo sblocca Italia, cioè questo decreto di fine agosto che conterrà molte misure per la sburocratizzazione e che si legherà ad un taglio, per così dire, della spesa pubblica improduttiva nella pubblica amministrazione da effettuare con la manovra. Sblocca Italia, PA e Fisco, gli altri dossier di fine estate, un articolo sul nostro giornale Il Sole 24 Ore di Davide Colombo e Marco Mobili. L'appuntamento con lo Sblocca Italia è per il 25 agosto prossimo. Per quella data i tecnici rimasti a Roma a tradurre in norme il programma presentato da Renzi prima della pausa estiva presenteranno al Premier l'articolato con cui l'esecutivo punta a sbloccare subito 1,2 miliardi del fondo, revoche per dare nuovo ossigeno alle opere in corso o subito cantierabili. Ecco Alfonso, quello che dicevi tu, insomma si prepara un settembre molto a scadenza molto serrata per Matteo Renzi per far ripartire l'economia, almeno per provarci. Sì, e diciamo oggi sarà, tra oggi e domani era previsto un incontro con il Presidente della Repubblica Napolitano, col quale sappiamo Renzi si confida per quanto riguarda il piano di riforme. Da questo colloquio, da quello che trapelerà, per così dire, avremo se non altro il mood, il senso del cammino che il governo intende fare. Il capitolo dei tagli è sicuramente sensibile, abbiamo visto gli attriti dei giorni scorsi con il commissario alla spending review Cottarelli e nei prossimi giorni se ne saprà qualcosa di più. Ecco, si capisce se Cottarelli resterà oppure no, perché a settembre dovrebbe andare via. A settembre dovrebbe andare via e probabilmente sarà quello che gira, insomma, nel palazzo, che è previsto un avvicendamento, per così dire. Però sono tutti temi, insomma, che cambiano giorno per giorno. Quello che è certo è che Matteo Renzi vuole su questo capitolo della spesa pubblica la possibilità di decidere in autonomia, perché rivendica la natura politica di queste scelte, quindi non si farà, per così dire, dettare il compito dagli altri. Sappiamo che Cottarelli ha indicato una serie di spese improduttive, per così dire, che possono essere tagliate e in qualche modo anche la BCE ha richiamato questa esigenza di tagliare su questo fronte, ma Renzi ieri ha detto che vuole vederci chiaro e vuole differenziare gli interventi, perché ha detto se su un fronte taglieremo, se su un fronte limiteremo le spese, su un altro fronte le aumenteremo. Ed ha annunciato, per esempio, per settembre una misura shock, l'ha detta lui senza entrare poi nel dettaglio, per quello che riguarda la scuola. Quindi sulla scuola, sugli insegnanti ci sarà un aumento di spesa piuttosto che un taglio. Su altri capitoli è probabile che invece il governo sottoporrà la macchina dell'amministrazione pubblica a una cura dimagrante piuttosto consistente. Ricordiamo il numero per i nostri sms, 349-238-6666. Ma come sperate che l'inflazione aumenti? Ci scrive Piero, con gli stipendi che calano e i disoccupati che aumentano non può che essere così. Grazie Piero, anche Beppe invece dice: Renzi promette 80 euro in più a chi lavora, chi ha perso il lavoro o un artigiano fallito deve solo morire, vergogna. Ora, quello che preoccupa un po' a livello economico europeo è il fatto che anche la Germania sta rallentando. Segnalo allora sul Corriere della Sera: la crisi Italia e l'Unione Europea, prezzi e consumi fermi, 10 città in deflazione, fiducia picco in Germania, l'indice del carovita scende in luglio allo 0,1%, il tesoro fa il pieno all'asta bot, tassi ai minimi, l'economia non cresce, scrive Mario Sensini, redditi e consumi stagnano, i prezzi sono fermi. Però quello che ci dice anche che domani sono attesi i dati sulla crescita del secondo trimestre di Francia e Germania, e tra gli analisti c'è il diffuso timore di un dato negativo anche lì. Tanto che il governo di Parigi potrebbe optare per un ulteriore allungamento dei tempi concordati con Bruxelles per raggiungere il pareggio di bilancio. UE in trincea sulle riforme, anche Parigi trema, sempre sul Corriere della Sera. In autunno gli esami sul deficit, rischio stagnazione per la Francia e Weidmann attenti al nodo Ucraina. Ecco, Berlino frena, c'è un'intervista con l'analista Gross, meno pressioni sull'Europa, ma il suo rallentamento è negativo per tutti. Daniele Gross, economista tedesco, dice questo sul Corriere della Sera. Alfonso Raimo, se la Germania, che è il motore d'Europa, rallenta, comincia a preoccuparsi anche Angela Merkel. Questa politica di rigore sui conti non funziona? Sì, evidentemente sì, ed è insomma la speranza del governo italiano che questa consapevolezza assuma sempre maggior peso all'interno delle scelte comunitarie. L'Italia, per il momento, Renzi ha detto che sostanzialmente si spingerà nella considerazione del rapporto tra deficit e PIL al 2,9, che rispetto alle previsioni del passato è già qualcosa di più, perché aveva parlato finora di un 2,6 e aveva intenzione di attestarsi su quel fronte. Ora quindi l'Italia si riserva un piccolo margine di spesa in questo ambito. C'è però da dire che a Palazzo Chigi viene vista con particolare attenzione una proposta che è stata avanzata dalla Reichlin, che è stata una dei direttori generali della BCE ed è professoressa alla London School, cioè quella di considerare che la parte del debito italiano non strutturale, diciamo legato alla crisi congiunturale, possa essere, per così dire, cartolarizzato attraverso un'operazione che prevede la creazione di una bad bank europea, e in quel modo liberare dei finanziamenti. In ogni caso, quale che sia poi la soluzione tecnica, è chiaro che il grosso della partita italiana si gioca nell'ambito della possibilità che l'Europa conceda margini maggiori almeno agli investimenti strutturali, almeno a quell'opera di cantierizzazione, riforme strutturali che Draghi da una parte invoca, ma che l'Italia senza avere possibilità di spesa non può portare avanti. Ecco, mi riaggancio a questa cosa che hai detto, perché c'è un radioascoltatore che chiede a te proprio, Alfonso, i miliardi per pagare le PMI, CIG e gli 80 euro, dove li trova a settembre Matteo Renzi? E questo è un po' il problema, no? Si cerca proprio anche di capire se si va verso uno sforamento di questo rapporto deficit-PIL con i nuovi dati sul PIL così bassi. Renzi dice siamo attorno al 2,9%, quindi proprio al limite. Sì, lui si spingerà fino al limite del 3%. non ha intenzione di sforare perché lo considera, per così dire, un punto d'orgoglio, nel senso che può andare in Europa e dire rispetto ad altre economie come quella francese, noi non abbiamo sforato i parametri, per cui ci dovete consentire di avanzare delle richieste che sono motivate dalla buona volontà, per così dire. Per quanto riguarda il pagamento della pubblica amministrazione, da parte della pubblica amministrazione alle imprese creditrici, Renzi aveva fissato, non so se ricorderanno gli ascoltatori, con Bruno Vespa una scadenza a settembre, aveva detto che sostanzialmente per quella data avrebbe trovato i soldi. Per qua la domanda che mi fa l'ascoltatore, io non saprei rispondere perché insomma. Non lo sa nemmeno Matteo Renzi, diciamo che. È abbastanza, diciamo, bisognerebbe chiedere ai tecnici del tesoro, cioè, lo stesso Matteo Renzi. Certo, allora segnalo sul Fatto Quotidiano The Man in Black, il trio sotto scorta che spaventa mezza Unione Europea, sono due tedeschi e un danese, ad Atene non li amano, il governo greco è meglio se negoziamo a Parigi, il soprannome Man in Black si riferisce ai tre signori della Troica, i tre dirigenti che formano il vertice della struttura messa insieme da Fondo Monetario Internazionale, Banca Centrale Europea e Commissione dell'Unione Europea per concedere prestiti ai paesi in difficoltà e ridisegnare la politica economica in senso fortemente liberista. Formalmente ne fanno parte anche i loro capi, Christine Lagarde, Mario Draghi, José Barroso e il responsabile degli affari economici Kaitanen, scusate, è un nome difficile, ma la troica vera sono loro. Sono Paul Thomassen, Klaus Masuch e Matthias Mors, un danese e due tedeschi, anche se non è l'inizio di una barzelletta, ma l'ennesima conferma di un'unione a trazione nordica. Questo lo segnalo sul Fatto Quotidiano. E invece sulla Stampa segnalo appunto quello di cui parlavamo prima, il fatto che il cavaliere, cioè Silvio Berlusconi, è invece al lavoro, chi se lo immagina triste, scrive Ugo Magri, senza nemmeno la fidanzata a tenergli compagnia perché Francesca è in Sardegna, Villa Certosa, sbaglia di grosso, Berlusconi ad Arcore se la passa benone, è attivo, vede un sacco di gente e spiega anche sempre la Stampa, è sempre Ugo Magri, la sua scrivania al primo piano di Villa San Martino è ingombra di carte, nonché di appunti, manoscritti, perché l'ex cavaliere ha la testa concentrata sulle strategie d'autunno, forse mai nei giorni di Ferragosto era stato così preso dalla politica. Da quando l'hanno assolto per rubi, gli brucia la voglia di riprendersi la scena. È come se i giudici avessero sguinzagliato una tigre. Ecco, questo è un po' il retroscena di Ugo Magri. E Carlo Bertini sulla Stampa dice, intervista Gozzi, Sandro Gozzi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio del PD, non abbiamo bisogno di nessun soccorso azzurro, il sottosegretario, taglieremo ma non alle famiglie, non siamo in emergenza. E quindi vedi al Alfonso che c'è proprio un retroscena sempre che fa sì che il cavaliere torni a tessere un po' le file di una grossa coalizione, mettendo, come dicevi tu, all'angolo Angelina Alfano. Sì, ed è anche prevedibile che però Renzi respinga queste avanze, insomma, fino all'ultimo, perché è chiaro che l'entrata, diciamo, di Forza Italia nell'area di governo cambierebbe completamente la natura politica di questo esecutivo e dall'altra parte esporrebbe anche Renzi sul fronte dei rapporti interni nel PD, perché tra l'altro a fine agosto va in Consiglio dei Ministri anche la riforma complessiva della giustizia, tema caldo insomma nei rapporti tra Forza Italia e il PD. Lo espone perché naturalmente lo costringe poi a dover riaprire anche il tavolo delle riforme. Nel momento in cui Forza Italia ha il potere di veto sulle riforme, ma può anche dire una parola, per così dire, sul programma di governo, è chiaro che i problemi per chi guida la macchina aumentano. Dall'altra parte NCD a questo punto dovrebbe trovare una ragione d'esistere, perché quando il centrodestra, che tra l'altro sta tentando in maniera molto difficoltosa di ricreare anche le coalizioni a livello regionale, perché ci sono alcune regioni che vanno al voto anticipato quest'autunno, Quindi Forza Italia e NCD stanno cercando di rimettere in piedi una federazione di centrodestra, un cammino comune. Nel momento in cui il leader vero, Silvio Berlusconi, entra nell'area di governo, è chiaro che per Alfano, insomma, il cammino si restringe molto. Dall'altra parte c'è da dire che probabilmente Renzi vuole instaurare un rapporto con Forza Italia, ma lo vuole fare, questo è almeno quello che si può capire dalle parole che ha detto ieri, sulla base di un appoggio che Forza Italia è in grado di garantire provvedimento per provvedimento, cioè quei voti potrebbero risultare utili ma senza che vengano richiesti, per così dire, perché questo non impegna il governo in uno scambio su altre materie. Per chiudere brevemente il capitolo Italia, segnalo sul Sole 24 Ore di mercoledì le novità del DL Competitività, focus sugli interventi di agevolazione fiscale, manifattura al bivio, il settore dell'aerospazio cresce ma deve fare sistema, guida pratica per la famiglia, difendersi dalle multe, le alternative all'acquisto dell'auto. Segnalo poi su Libero un articolo di Antonio Castro, tasse, affitti, scadenze, la guida a casa del fisco, l'agenzia delle entrate prova a sfoltire la giungla di norme e cavilli per inquilini e proprietari, Libero ve lo racconta in modo semplice. Zaia alla consulta contro il bonus da 80 euro, questo sia sulla Padania e sia sul Messaggero. Passiamo invece alla pagina esteri. Tutti quanti gli inviati sono lì, incluso il nostro Alberto Negri, sono a Erbil per raccontare questa guerra terribile che sta avvenendo in Iraq e leggiamo un brano di Alberto Negri: la controffensiva dei curdi comincia con una maledizione, sono le tribù arabe che hanno tradito, pensavamo che fossero nostri fratelli e ci hanno pugnalato alle spalle, nascondendo nei villaggi miliziani del califfato, sibilla il generale curdo Ali Ahmed. E questo è Alberto Negri sul Sole 24 Ore, come anche con i Peshmerga sia c'è Antonio Negri, sia c'è Lorenzo Cremonesi sul Corriere della Sera, ma invece quello che ci rivela Pietro Del Re su Repubblica è l'Iraq, l'orrore della guerra negli occhi dei bambini venduti come schiavi, stupri, delitti di massa, atrocità, ecco il rapporto dell'ONU, la denuncia degli yazidi, c'è 600 ragazze in ostaggio, bambine stuprate e poi vendute al mercato degli schiavi, bambini arruolati di forza nelle milizie jihadisti e poi anch'essi violentati. Questo si legge nella Horizontal Note, l'ultimo rapporto trimestrale preparato dal personale UNICEF in Iraq. Insomma, sempre più grave questa guerra, tanto che il giornale, ma anche l'Avvenire, punta il dito sul Vaticano ai religiosi islamici, dice schieratevi contro il califfato. Bando alle ambiguità, la situazione in Iraq esige una presa di posizione chiara e coraggiosa da parte dei responsabili religiosi, soprattutto musulmani. Questa è la posizione del Vaticano. ISIS invece per Libero un pasticcio USA, li hanno finanziati armati, ora sono costretti a combatterli. Washington ha foraggiato la resistenza siriana contro Assad, aiutando indirettamente anche gli jihadisti, e Obama in patria, criticato da destra e sinistra, risponde a parolacce. Sappiamo che è in atto uno scontro anche con Hillary Clinton. Questo è un articolo di Maria Giovanna Maglie. Segnalo però due interviste contrapposte su questo tema e poi farò appunto una breve domanda a Alfonso Raimo dell'agenzia Dire, che è il nostro ospite questa mattina. L'intervista sulla Stampa in primo piano a Maglio Di Stefano del Movimento 5 Stelle, che è contrario ad ogni tipo di intervento per capire l'ISIS, dice Maglio Di Stefano, serve rispetto, noi siamo contro ogni intervento armato in Iraq, anche indiretto, noi restiamo pacifisti senza se e senza ma. Manlio Di Stefano appartiene, è capogruppo Movimento 5 Stelle alla Commissione Esteri della Camera. Noi occidentali abbiamo dato per scontato che la nostra fosse l'unica democrazia possibile. Affrontare le cause con rispetto significa interrogarsi se non ci siano altre forme di governo e di democrazia che vanno bene per i posti dove sono. E ovviamente un'intervista di senso assolutamente opposto, sempre sul Libero, di Tommaso Montesano al presidente della Commissione Esteri Fabrizio Cicchitto, del Nuovo Centrodestra. L'Europa si decida, noi siamo pronti, se un intervento armato diventa necessario non ci tiriamo indietro. Due visioni completamente all'opposto, Alfonso, ma il PD che cosa fa in questo senso? Il PD si affida all'iniziativa che il ministro degli esteri Mogherini sta cercando di mettere in campo. Mogherini, questo tema che hai richiamato e che richiama il Movimento 5 Stelle è il tema, insomma, dell'articolo 11, cioè se l'intervento dell'Italia in un eventuale conflitto possa configurarsi come un intervento volto a preservare la pace oppure no. Mogherini due giorni fa ha detto che l'Italia valuta insieme ai partner europei qualsiasi forma di aiuto per soccorrere gli yazidi, cioè la minoranza curda che viene perseguitata dagli uomini del califfato, dai terroristi del califfato. C'è da dire che quello che manca in questo momento è una presa di posizione dell'Unione Europea. Ieri Mogherini insieme al ministro degli esteri francese Fabiou hanno fatto un appello anche, insomma, per così dire fuori dai denti, per dire nel momento in cui la gente crepa l'Unione Europea non può stare in vacanza, e hanno chiesto a gran voce la convocazione di un consiglio dei ministri degli esteri europei per decidere una strategia. Dall'altra parte abbiamo visto che 5 Stelle chiedono invece a Mogherini di riferire in Parlamento prima di ogni altra eventuale iniziativa del governo italiano, anche congiunta con i partner europei. La situazione è molto in movimento e sostanzialmente affidata, mi pare di capire, più alle iniziative che può prendere il governo americano con Obama che a una iniziativa in campo europeo. Come al solito. Alla fine l'Europa è molto molto ligia sui conti pubblici, ma non riesce ad avere una politica estera degna di questo nome. Noi però vogliamo cambiare argomento, vogliamo salutare un grande, se n'è andato un grande ieri e noi lo vogliamo ricordare così. Mi chiamo Mor, su nuovo vengo da Or. Imparo un po', ora il saluto ti do. Nano, nano, la tua mano. Nano, nano, apri piano. Nano, nano, batti il palmo. Nano, nano, ora il fianco. A volte ti muore un amico carissimo, scrive Vittorio Zucconi su Repubblica, che non avevi mai conosciuto e che ti fa arrabbiare e piangere perché sembra un tradimento personale. Uno come Robbie Williams, presente, per esempio, l'uomo con troppe qualità, che aveva gli occhi troppo azzurri, il talento troppo grande. Un uomo, scrive sempre Zucconi su Repubblica, con il cervello di Einstein e il carattere di Paperino. E nessuno pensava che Paperino potesse morire. Williams era un cartone animato che disegnava e ridisegnava continuamente se stesso, senza davvero piacersi mai, fino a cancellarsi nel mattino di lunedì scorso. Questo è il nostro saluto a Robin Williams, ricordiamo, l'attore a 63 anni è morto suicida impiccandosi nella sua casa. Ecco, Alfonso, te come lo vorresti ricordare? Tu come lo vorresti ricordare Robin Williams? Io lo ricordo per un altro film che è Good Morning Vietnam. Non so se ricordate la scena in cui Robin Williams, che faceva lo speaker di una radio inviato in Vietnam, si rende conto del muro di propaganda che la macchina di guerra americana ha messo in piedi per impedire ai soldati di avere una reale informazione su quello che accadeva in Vietnam nei vari posti di guerra. E quando lui si trova a girare per Saigon e, insomma, gli esplode una bomba a poca distanza con morti e feriti, cerca di andare a dare subito alla radio questa notizia, ma gli viene impedito. per cui poi alla fine lui deve darla con molta sofferenza nella forma retorica della negazione, cioè non è esplosa una bomba, non ci sono stati morti, e in questo modo riesce comunque a dare una notizia che avrebbero voluto non dare. Io lo ricordo così, ma credo che di Robin Williams, insomma, bisogna ricordare il fatto che ha incarnato un ideale di vita, di vitalismo, per così dire, che forse la sua morte in qualche modo nega, e questo aumenta il senso di sgomento, di abbandono dell'opinione pubblica. Io invece lo ricordo, pensa, per Al di là delle nuvole, un film molto strano, particolare, in cui lui addirittura andava a salvare la moglie morta suicida, un po' un film premonitore di questa terribile fine. Invece, cambiando argomento, andiamo ad alleggerire la nostra rassegna stampa, siamo proprio agli sprazzi finali, perché c'è una guerra in bikini, Alfonso, tra Maria Elena Boschi e Agnese Renzi. Ci sono queste foto, no? Insomma, questa Italia voyeuristica che non cambia mai, quindi si fotografano i politici e le mogli dei politici in questo caso. C'è questa sfida tra il corpo di Agnese Renzi e quello di Maria Elena Boschi, ma noi speriamo che Maria Elena Boschi faccia le riforme, o non è importante vederla in bikini o no? Sì, come ho letto ieri, non so se, insomma, qualcuno si chiede se sia meglio la forma o la riforma. Certo, questa competition, anche forse a loro insaputa, sul lato B, per così dire, ha già dato, insomma, ha fatto il suo tempo, possiamo anche risparmiarcelo in qualche modo. Nell'ultimo minuto, quindi brevissimo, Conte, Italia si può, Antonio è vicino al sì, scrive la Gazzetta dello Sport, con le sue condizioni, che però condizioni per iscritto, vuole agire a tempo pieno, poter fare stage e controllare tutte le squadre nazionali. Anche la famiglia lo spinge ad accettare. Il nodo economico, determinante il ruolo degli sponsor. Insomma, con l'arrivo di Conte, la nostra nazionale tornerà a vincere? Questa è la domanda che ti faccio, devi rispondere brevemente, siamo in chiusura. Rispondo da romanista, me lo auguro, anche se sono un romanista, mi auguro che con Conte si torni a vincere. Il contratto, mi pare di capire, 1,3 milioni all'anno è abbastanza sostanzioso, quindi dovrebbe impegnarsi molto. Ringraziamo allora Alfonso Raimo, giornalista politico dell'agenzia Dire, che ha svelato non il suo credo politico, solo quello calcistico. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia e vi ricordo GR24 subito dopo. Irene Zerbini, un saluto e una buona giornata da Elisabetta Fiorito.